fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera a tutti, buonasera, eccoci qui, Risto Radio Convento, mezzanotte e 39 di questo venerdì 7 dicembre del 2018. Io sono Master Nick, per l'occasione, come sempre consuetudine nella nostra radio, per raccontarsi e per raccontare, chiacchieriamo un po' con due nostri amici che sono venuti a trovarci nei nostri studi. Vai, presentiamoli. Io sono Clara. Clara, benvenuta. Clara, ho 16 anni e vengo da Asola. Bello, poi il nostro uomo. Io sono Pasquale, vengo da Asola e ho 16 anni. 16 anni, giovanissimi. E cosa fate qui di bello? Festeggiate qualcosa? Perché domani non andiamo a scuola, quindi... è un motivo per festeggiare. Divertirci. Non andate a scuola, come mai? Festa. Certo, 8 dicembre, questo che... ma perché sai, noi lavorando sempre in queste occasioni non ci rendiamo conto a volte del calendario. E che scuola fate? Ragioneria Sistemi Informativi. Urca. Ragioneria anch'io. Ah, stessa classe, sì. Stessa classe. Ma siete qui solo voi due o c'è altra gente? No, ci hanno accompagnato, ma poi vengono a prenderci. Ah beh, siete da soli però. Sì. Ah, ok, sì, sì. Ok. Ma cosa c'è del tenero? Siete amici? Cosa? Siamo migliori amici dalle medie. Dalle medie? Sì. E vi state seguendo anche nel percorso di studi delle superiori, quindi? Sì, sì. E qual è la vostra aspirazione, il vostro sogno? Cosa vorreste fare poi? Non lo so ancora. Io faccio pole dance, mi piacerebbe fare delle esibizioni di pole sì? dance. Sì? Posso azzardare? Sai che io ho delle doti divinatorie? Cioè? Non te l'ha mai detto? No. Ok, posso azzardare che dopo questa tua frase voglio fare pubblicità e salutare tutti gli amici della Smirnoff, giusto? Sì. Hai visto? Che ho doti divinatorie. O no? Adesso ci credi? Sì. Salutiamo tutti gli amici della Smirnoff, che è una scuola di pole dance dove immagino la nostra Clara vada, da quanto sì. ho capito. E quindi vorresti fare quello? Sì. Davvero? Ma hai già fatto qualche gara, hai già fatto qualcosa? No, faccio i video mentre li faccio e dopo sperimento se provare o no le esibizioni. E per adesso però non ti sei ancora esibita? No, me l'hanno chiesto ma non mi sento pronta. Vabbè, prenditi il tuo tempo, da quant'è che lo fai? Un anno e due mesi circa. Inizi a prendere, sì. a prendere l'abitudine, insomma, a prenderci mano adesso. Tra l'altro, disciplina bellissima che è esplosa negli ultimi anni, sconosciuta fino a qualche anno fa, mentre adesso sta proprio prendendo piede, molto molto conosciuta e molto molto frequentata. Invece Pasquale, qual è la tua aspirazione, il tuo sogno? Io vorrei diventare finanziere. Ah, però, già l'idea è chiara. Sì. E come mai finanziere? Perché è un mestiere che mi piace molto. E cosa ti piace di questo lavoro? Girare in città, controllare che tutto vada bene. C'è un ordinato? Sì. C'è uno a cui piace la disciplina, le cose che vadano bene, che funzionino? Sì, sì. Sì? Ma anche a scuola sei uno precisino? Non tanto a scuola, no. Non tanto. Però beh, quella cosa lì sì, che è magari il tuo lavoro preferito. Sì, sì, quello sì. Dai, in bocca al lupo, bello, bello aver già le idee così chiare a 16 anni. Ragazzi, volete salutare qualcuno? Ma... No, non in particolare. A parte questo, avete altri hobby, qualcosa che vi piace? A me piace molto dipingere. Poi un artista, sì. Un artista tutto tondo. E poi mi piace molto parlare francese. Parlare francese. Francese? E come mai hai fatto ragioneria? Lo faccio come seconda lingua. Però perché non hai scelto una strada più linguistica? No, perché poi c'erano anche altre lingue come inglese e altre lingue più difficili che non avevo voglia di studiare. Non ti prendono molto? No. Chissà come mai il francese, che è un po' una lingua che sta cadendo in disuso, invece ti affascina. Cosa ti affascina? Il suono, la melodiosità? Le pronunce, poi è molto simile all'italiano. Sì? Quindi... Dai, fammi una dichiarazione del tuo affetto, del tuo bene a Pasquale in francese, che così si scioglie un po' anche lui. Tu è mon ami, nous allons on... adesso non mi viene in mente. L'emozione, capisco. Vai, quello che ti viene, improvvisa. Non riesco a improvvisare. No, non riesci a improvvisare, vabbè, io mi fermo a baguette e Zinedine Zidane, quindi diciamo che sei andata già molto molto più avanti. E tu invece, Pasquale, hai qualche altra passione? A parte controllare le case della gente che paghino tutte le tasse? Faccio palestra. Ah, bello. Allora aspetta, perché io ho sempre doti eliminatorie, come ti ho già dimostrato prima. E oltre agli amici della Smirnoff, salutiamo anche gli amici dell'Enjoy e della Millennium, esatto. Giusto? Dov'è delle due? Millennium. Oh, salutiamo più gli amici della Millennium, ma anche quelli dell'Enjoy. Palestra da quanto la fai? 2 anni. 2 anni, ma allora. Sala pesi o cardio? Pesi. Pesi, qual è il tuo massimale? Dipende. Vabbè, giusto, dipende dall'allenamento, chiaramente. Sì. Vabbè, per ora dove sei arrivato? 120. 120, cavolo. Mi tiri su 2 clara, forse anche 3. 2 clara e mezze. Sì, 2 clara e mezze. E qual è il tuo esercizio preferito? Panca. La panca? Panca, bello, bello, bravo, si vede che è già bello, bello rigido, bello impostato, anche perché se vuoi fare finanziere, giustamente devi avere anche mettere un po' di incutere un po' di timore nell'altro, quindi anche avere un po' di fisicità non guasta. Va bene, ragazzi, volete dire qualcosa? Volete aggiungere qualcos'altro? No, a posto così. Bene, vi state divertendo? Sì. Oh, bene, ci fa piacere. Allora, quando è che vi vengono a prendere? Che è quasi l'1? Tra magari mezz'oretta. Ma vabbè, allora, avete ancora tempo per ballare un po', a divertirvi. Sì. Va bene, vi ringrazio allora e buona serata, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. A presto, buonanotte. Buonanotte.